quando cominciò. Non ricordo più il mio male, sei solamente tu. Quando cominciò. Non ricordo più il mio male, sei. Quando cominciò. Non.